povero motore, la tua solo finzione. Sei sotto doggio, sotto pressione, non vengo dal sottosuolo. Underground come il nostro sound, il nostro suono. Sui muri troverai il nostro logo, mi trovi sopra il palco con il pogo. Perché solo quello che so, un poco di buono. Più esperienze negative che positive, per il futuro quali sono le mie prospettive? Non lo so ancora. Intanto sparo la mia parola in questa società che non funziona. Io le cose le ripeto una volta sola, anche all'MC che si loda, che paga solo per moda. È giunto il momento di darti una sana dose di mazzate a te e agli altri poser del cazzo, che l'ho già attorno con un lazzo. Ti spiazzo, non ti do tregua, aspetto che tu mi segua per intrappolarti nella rete, dove te le canto io le canzonette, dove non mi potrei fuggire, dove lo scopo si può stile, dove devi solo subire. Tu continua pure a dire che non ho stile, io continuo ad impedire che la tua merda si propaghi, si dilaghi, e i cazzi che ti succhi adesso sono quelli acidi e amari. Uomo di merda privo di ideali, siete tutti uguali voi miei avversari, siete fatti della stessa pasta, a tutto il vostro schifo io dico basta, fotetevi voi e la massa. Adesso è la co che vi devasta e vi sovrasta, dirigo io l'orchestra, non vi daremo mai un attimo di siesta. Arrivo alla tempesta, arrivo in parole che apparti la festa. Dimmi se sei pronto per l'impatto, non scendo a patti, sono pronto per l'impatto. Dimmi se sei pronto per l'impatto, non scendo a patti, sono pronto per l'impatto. Dimmi se sei pronto per l'impatto, non scendo a patti, sono pronto per l'impatto. Dimmi se sei pronto per l'impatto, non scendo a patti, sono pronto per l'impatto. Al dato stop, l'psicodotto che mi vuole mettere sotto, convinto che mi stilegna troppo, eliminarlo dalla faccia della terra è il mio scopo. Sentenza sempre pronto per lo scontro, anche adesso, per questo io resto fuori dal suo contesto, e sempre più spesso mi vedo puntato da occhi di falco. Quando sto incontrastabile sul palco, tutta la mia adrenalina è salto, con il poco furioso che scuto dall'alto, e ti sputo fuori tutta la mia esperienza, quando la mia hardcore band sta in frequenza. Non ce n'è più per nessuno, sucker, fottiti nel culo, io con te ci andrò sempre a muso duro, ti ho messo con le spalle al muro, vaffanculo, hai commesso uno stupro, ora ti saluto, bye bye, spocco farabutto, arrivo in valore di darti il benvenuto. Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti. Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti. Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti. Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti. Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti. Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti. Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti. Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti.